Radio 24 Reportage. Io sono nato conto che già è una famiglia di criminali attivi. Ci sono famiglie attive e non attive. Io sono nato in famiglia attiva perché mio padre era un criminale che compiva crimini. Quindi lui stava in galera, rapinava le banche, era completamente un criminale attivo. Miei zii anche e mio nonno lo era. Quindi educazione, tutto quello che ti circonda è completamente sulla base di questa filosofia criminale. Quindi ti insegnano da bambino di vivere questa vita, fai la scuola di vita criminale. Cioè, da bambino ad esempio hai rapporti con le armi, ti insegnano come tenere in mano il coltello, poi ti portano in qualche macelleria e ti insegnano come infilarlo in mezzo alle costole. Come sparato, tu fai parte di una comunità criminale. Io da bambino ero convinto che nella mia vita, anzi speravo più presto possibile di poter cominciare a fare affari criminali, per cui ti insegnano anche che la galera fa parte della vita, della tua tradizione. Infatti io quando la prima volta sono finito in galera ero anche contento. È tutto quello che ti succede in questo posto è completamente legato con la tradizione e con la filosofia criminale. No, non è uno scherzo, né Nicolai è un millantatore. E il fatto che non ci abbia voluto o potuto dire il suo cognome ne è una riprova indiretta. La sua è una di quelle storie che raccontano frammenti di un presente che solitamente ignoriamo o che si perdono nella confusione mediatica nella quale siamo ormai costantemente immersi. Ascoltare la storia di Nicolai significa invece cambiare prospettiva al nostro sguardo e riconoscere che il termine globalizzazione non può riferirsi solamente ai mercati, ma deve comprendere la poliedricità dei vissuti e delle culture altre, anche se queste possono mostrare distanze esperienziali ed etiche incolmabili. Nei primi anni del regime staliniano, la Transnistria venne prescelta come destinazione per migliaia di deportati dalle regioni siberiane. La stragrande maggioranza dei deportati erano membri di clan dediti a furti di oro e diamanti a danno delle carovane dirette a Occidente che di lì transitavano. A uno di quei clan apparteneva anche la famiglia di Nicolai. In quegli anni lì erano interessati di eliminare la comunità siberiana presente in Siberia perché le dava molto fastidio conquista della Siberia. Conquista della Siberia rappresentava apertura a oro, diamanti, tutto quanto arrivava da lì. Solo che quando in mezzo ci sono criminali che ti sparano, che ti rubano i treni, è difficile di farlo. Loro hanno deciso di praticamente, anziché uccidere questa gente, caricarle sui treni e spostarle da un'altra parte, da dove loro non possono più arrivare perché in quei anni lì biglietti al treno non si compravano, capisci? Quindi alla fine la gente veniva caricata nel treno, così come è successo anche con i miei antenati, con mio bisnonno, che è rimasto da solo. Mio bisnonno è stato fucilato, mio bisnonno con otto figli è caricato sul treno, è arrivato in Transnistria nel 1920 e qualcosa. La comunità russofona siberiana, seconda in termini numerici tra quella moldava e quella ucraina, data la forte compattezza dei clan e la reciproca solidarietà nella comunità stessa, non faticò a stabilire la propria supremazia nella gestione del potere sulla zona, il che significava principalmente una gestione dei molteplici traffici che, di quella terra che faceva da cerniera tra Oriente e Occidente, erano la principale ricchezza. La gente che abitava in Transnistria, di criminale, di comunità criminale, sul posto dove sono nato io, neanche 2%. Il resto della gente sono gente normale. Quindi la nostra comunità rappresentava il potere. Il resto della gente viveva protetta da questo potere. Quando è caduta l'Unione Sovietica e la Moldavia è diventato un paese indipendente, i moldavi hanno tentato di fare quello che in tutti gli anni di esistenza dell'Unione Sovietica non hanno mai fatto i sovietici, quindi hanno cercato di legalizzare questa terra, di mettere il potere politico in questa terra. Hanno fatto questo con la guerra, facendo la guerra di 92, che era molto breve ma molto sanguinosa. praticamente in poche parole i criminali hanno formato una specie di esercito composto da criminali e hanno cacciato, hanno fatto la guerra, hanno cacciato il nemico. Dopodiché i criminali sono andati un po' più avanti perché hanno cercato di entrare già sul territorio moldavo e a questo punto la situazione politica è cambiata. I moldavi hanno capito che il loro tentativo è fallito, hanno chiesto aiuto dalla Russia per far tornare le cose al suo posto, perché loro non si parlava più di prendere Transnistria, loro già avevano paura di perdere i suoi pezzi, quindi hanno chiamato i russi hanno subito, hanno mandato un pezzo di sua armata e arrivati i russi hanno messo tutto a posto. Però quando sono arrivati i russi sono stati costretti di applicare il regime militare. Dopodiché nella Transnistria la situazione non è mai più tornata come era prima. Dopo il regime militare, che è durato 2 anni, i russi hanno messo il loro presidente e il popolo transnistriano ha accettato. Quindi comunità siberiana è rimasta unica comunità, poca gente che cercava di resistere a questo cambiamento. E i siberiani non volevano mai avere i politici in casa, quindi non ci interessava proprio. Anche perché significava di lasciare tutti gli affari all'altra gente, non significa che adesso sono arrivati i politici e traffico di droga, traffico di armi, tutta gente che uccide per pagamento, spariscono. Se in Olanda devono arrivare ogni anno un tot di chili di eroina, arriva, solo che la gente che la manda cambia, punto e basta. I soldi non arrivano ai criminali, arrivano ai politici. I siberiani sapevano queste cose, però il popolo, visto cambiamenti, soprattutto dopo aver sopravvissuto la guerra e spaventata che il potere di criminale è indebolito, il popolo non si fidava più ai criminali, diciamo, perché dicevano, guarda, succedono i cambiamenti, successa la guerra, forse protezione di criminali non è così più come una volta, i politici comunque ci promettono buone cose, adesso ci proteggono di più e si sono fidati ai politici. Intanto quello che è cambiato è che ad esempio appena sono arrivati i politici hanno subito fatto pagare il gas, acqua, luce, cosa che ad esempio in Transnistria non si pagava mai. Nessuno non tentava di chiedere dai transnistriani pagare, perché sapevano che quelli là sono peggio dei terroristi, loro sono poi capaci di ammazzare qualsiasi persona. Quindi politico che si mette davanti a un progetto simile è già morto. Quando invece la situazione è cambiata e politici hanno, con aiuto militare, sono messi in Transnistria e il popolo si è accorto che cosa significa di vivere la vita legale. Cioè la gente, forse per prima vita nella loro vita, si sono trovati davanti alle bollette. Hanno capito che loro devono pagare le tasse. Mentalità con cui loro convivevano con criminali è sparita. Infatti poi dopo, tanti criminali, incontrando la gente per strada, dicevano: ma non guardatemi adesso così, non mi chiedete niente, avete voluto voi. Volevate protezione del governo? Prendetela. Adesso avete, ogni volta a casa vostra vengono a bussare alla porta ogni mese chiedendo pagare un casino di soldi per bollette, per gas. Io vi bussavo alla porta magari una volta all'anno chiedendo qualche piccolo sostegno per i nostri fratelli in galera. Adesso io sto zitto e i miei soldi io mi prendo da solo, ma voi siete completamente abbandonati al rapporto con il governo, con politici. Poi punto e basta. Adesso Transnistria soffre, la gente povera, non c'è nessuna risorsa perché lì non c'è né petrolio, niente, lì passano solo i traffici, è una terra di traffici e come tutta terra di traffici, gente povera, perché da traffici non mangia nessuno, mangiano solo quelli che fanno il traffico. E quando quelli che fanno traffico sono gente gestita dal governo, alla semplice gente non arriva niente. Loro sono poverissimi, infatti transnistriani, adesso forse uno dei popoli più devastati di ex Unione Sovietica, anche se prima stavano molto bene. Ci sono storie difficili da narrare. Quella di Nikolaj, come avrete già capito, è una di quelle, perché è composta da innumerevoli sfaccettature. Da un lato ci sono le sue radici familiari e culturali, che affondano nelle immense pianure siberiane, tra culture e modi di vita arcaici. Poi ci sono le mille storie della terra dove è nato, la Transnistria, una terra di confine che è un coacervo di interessi politici, di questioni risolte, di ferite di guerra non ancora rimarginate, di violenze e di odi mai sopiti. E infine c'è la sua storia, la storia di Nicolai stesso, che nemmeno 30 anni di vita ha già attraversato due guerre e ha vissuto esperienze limite inimmaginabili della stragrande maggioranza dei suoi coetanei occidentali. Appunto, i coetanei di quell'Europa così vicina e nel contempo così lontana dalla Transnistria. Io ho una parte di famiglia che abitano in Germania e io avevo due cugini, un po' di persone lì che erano i miei parenti, comunque non li conoscevo neanche. Poi di volte mio padre li ha portati da noi in casa. Io quando ho visto questa gente, c'era, per me era impressionante perché io ho visto un maschio, quello io mi ricordo che si chiamava Sebastian, quel mio cugino. Avevo un anno più di me e io avevo 11 anni. Quello che mi ha stupito era uno che aveva la faccia e le mani e tutto corpo senza neanche un graffio. Cioè io quando l'ho visto non ci ho creduto. Noi eravamo pieni di botte, quando ero piccolo io le botte ogni sera. Quindi io quando ho visto per me era come un extraterrestre. E poi io lo portavo sul fiume a fare. Mio padre ha detto: mi raccomando, Nicola, questo è tuo cugino, quindi occhio perché lui non è di qui, stagli dietro e non abbandonare neanche per un secondo perché sennò muore. È ovvio. Io ho visto, ad esempio, un paio di volte sono finito a fare confronto con la gente e lui era dietro. Io davo per scontato che lui mi copre le spalle perché noi. Ma alla fine l'ho visto scappare. E poi i miei amici mi dicevano: Nico, ma tuo cugino, lui non è a posto, perché ha visto che tu hai preso due schiaffi e scappato via. Quindi io già a quel tempo ho capito che in Europa, ma anche come in Russia, cioè io ti dico, noi facciamo, fai 120 km da noi, vai in qualsiasi grande città della Russia, quelli che erano per strada per me erano pezzi di carne, cioè non avevano dentro neanche un pezzo d'anima. Per noi il valore era diverso. Per noi una persona che non è capace di rispondere, che non è capace di guardarti dritto negli occhi quando tu li guardi mentre passi, per me è un nessuno, non ha diritto di esistere, cioè fa come un verme. Poi mano a mano, conoscendo la gente, ho visto che comunque il mio modo di vedere le cose è cambiato, perché io ho visto che ad esempio tante persone non hanno nessuna colpa di essere nati in un altro posto, così come io non ho colpa di essere nato in famiglia di criminali. Quindi una volta quando a me mi davano le condanne e mi definivano criminale, io non ce l'ho con giudici, con la gente che mi ha condannato, cioè, anzi, io sono un criminale, io le dico in faccia, sono onesto. Poi se loro hanno deciso che io sono pericoloso, va bene, tutto rispetto, forse anche io sono d'accordo, in alcune situazioni sì, posso essere pericoloso, però loro per me anche sono pericolosi, perché per me uno che sta dietro e quando mi arriva una botta o una coltellata da dietro scappa, per me è uno pericoloso. Cioè uno che mi vede magari fare una certa cosa, si spaventa e mi denuncia per niente, per me è un pericoloso, perché rovina la mia vita per niente, per una cosa che per me è una formalità, che ad esempio per me portare la pistola era normalmente, io finché non sono arrivato in Italia io portavo dietro una pistola, ma non perché io ho voglia di uccidere qualcuno ogni giorno, perché io sono nato in paese dove si portavano coltelli e pistole, punto e basta. Cioè un uomo senza arma è come un uomo senza i suoi genitali, capisci? Da noi era così.